Buongiorno. Stamattina siamo un po' sparsi, vedo, eh? Ma che bello, vedo Michele in mezzo a noi. Adesso sarà la prima volta in 2 anni che è seduto fra le sedie, è vero? Almeno, che bello. Facciamo un applauso a Michele. Parlavo di Michele Moretti, logicamente, abbiamo tanti Michele in mezzo a noi, eh? Ok, questa mattina io parto sempre con la solita domanda che ho da tempo. Che cosa siamo venuti a fare? E ormai lo sapete, no? Che cosa sei venuto a fare? Adorare Gesù, sì. Siamo qui per imparare a vivere Gesù. Siamo qui per imparare a praticare Gesù. Siamo qui per imparare a sentire la volontà di Gesù per tutti noi. E questo vogliamo fare in questa mattina. C'è una bella storia nella Bibbia. È una storia un poco in negativo, però poi ha un lieto fine. Va bene, un lieto fine, e quindi sarà bello. Noi la vogliamo subito leggere, si trova in Luca al capitolo 24, credo che sarà mandata, e vorrei in un qualche modo chiedere a Luciana di venircela a leggere, perché come legge lei le leggi e i versi ai matrimoni non lo fa nessuno. Perciò la vorrei al mio fianco affinché ci legge in maniera che... Sì, qui. Senti, vi potete anche sprecare, non... Grazie, lo so. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Egli disse loro: «Quali?» Essi gli risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. E invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute tutte queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve la loro vista ed essi dissero l'uno all'altro: «Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?» E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Grazie. Avevo ragione? Ha fatto già capire tutto, non c'è bisogno che noi continuiamo sulla riflessione, ma è vero. Come titoleresti, che titolo daresti alla storia che abbiamo appena letto? Sentiamo che abbiamo sentito. Che titolo tu gli daresti? Va bene che è mattina, però. L'incontro. Riconoscere Gesù. Gesù con noi. Ancora? La sua grandezza, è vero, e potremmo dare tanti altri titoli. Io, da parte mia, gli ho dato questo titolo, Gesù cammina con me. Gesù cammina con me. Gesù cammina con te. Ed è vero, noi possiamo anche dire, sì, ma cammina con me, ma non lo vedo bene bene, non lo avverto sempre, non lo sento pronto, non lo riconosco in ogni situazione. Ed è vero, ed è proprio quello che è accaduto anche ai due discepoli di Gesù sulla via di Emmaus, che tornavano da Gerusalemme e andavano a Emmaus, circa 12 chilometri. Quindi è un bel cammino dove puoi stare insieme. Perché non lo hanno riconosciuto? Perché non lo riconoscono? Eppure noi possiamo dire, possiamo certamente attestare, questi due, se non sono stati 3 anni e mezzo con Gesù, poco forse ci mancava, questi due, se non hanno visto tutti i miracoli di Gesù, beh, molti li hanno visto. Se non hanno sentito tutti i messaggi del Signore, ma tanti messaggi li hanno sentiti, non lo hanno riconosciuto, non lo riconoscono. Perché non lo riconoscono? È la chiave, è il motivo, è la spiegazione, la danno loro stessi nel verso 21. Nel verso 21 dice questo: noi speravamo che... Noi speravamo che il mio desiderio, la mia visione, il mio modo di pensare, il mio vedere si mette sempre davanti a tutto e non permette di riconoscerlo, non permette di vederlo. Sapete che è accaduto anche in un qualche modo, un'altra storia, in un'altra maniera, ma la stessa cosa con Pietro. Vi ricordate Pietro? A un certo punto Gesù chiede, ma non è questa la storia, ma per capire dove ci troviamo, Gesù chiede a tutti gli apostoli, chiede chi dice la gente che io sia? E tutti rispondono, un profeta, l'Elia risorto, così, eccola. E Pietro risponde, tu sei il Cristo, il figlio di Dio, il salvatore del mondo. Incredibile, tanto al punto che Gesù gli dice, non ti ritenere bravo, perché questa è stata solo una rivelazione del Signore. Non sei stato tu bravo da capire queste cose, è stata una rivelazione del Signore. Subito dopo, nella stessa storia, nello stesso racconto, questo è scritto in Matteo al capitolo 16, poi lo potete andare a leggere, nella stessa storia, a un certo punto Gesù racconta quello che accadrà di lui da lì a poco tempo. Che cosa fa Pietro? È scritto letteralmente, eh? Che cosa fa Pietro? Lo prende con sé lo porta da parte e incomincia a riprenderlo. È incredibile. Pietro che rimproverava Gesù e gli diceva: questa cosa non ti accadrà mai. Non ti accadrà perché? Ma perché ci sono io, perché ci siamo noi, ma perché? Perché Dio non vuole che accada una cosa del genere. Quale fu la risposta o la reazione di Gesù a Pietro? Va via da me, Satana. È incredibile. Eppure, che ha fatto Pietro per meritarsi una cosa così brutta, così negativa? Eppure era buona l'intenzione di Pietro. Aveva una bella intenzione, voleva difendere Gesù, non voleva che gli accadesse niente di male, voleva che stesse sempre con loro. Era bello quello che Pietro voleva esprimere. Eppure Gesù gli dice: va via da me, Satana. Perché? Vi ricordate il perché glielo dice questo? Che cosa dice a Pietro poi Gesù? Tu hai il senso delle cose degli uomini e non delle cose di Dio. Pietro non ha riconosciuto Gesù, nonostante che aveva fatto quella bella dichiarazione: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Non aveva riconosciuto Gesù. Non lo aveva riconosciuto. E questo, ecco, che noi ci possiamo identificare tanto tanto in queste storie, perché in una situazione o in un'altra noi viviamo il più delle volte la stessa cosa. Io per me stesso posso dire, dando di me, quello che io vivo molte volte, vivo bendato. Come in una nebbia, vedo e non vedo, riconosco e non riconosco. È una benda che dice sì, ma, sì, ma, e non mi fa riconoscere in tutte le situazioni. O io dico anche di me stessa, dico io, in tante situazioni vivo prigioniero di una gabbia di aria che non mi fa andare oltre. Eppure, che cos'è? Non è niente una gabbia di aria, te la crei tu stesso, sei tu che ti delinei intorno a te un quadrato, a dire: oltre di là io non posso andare. Perché? E che cos'è? Sono i miei pensieri, sono i miei desideri, sono le mie aspettative, sono il mio modo di vedere. Esattamente come i due di Emmaus, noi speravamo che era la loro speranza, quello che loro ritenevano, e noi viviamo il più, ma è reale, ma anche si traduce anche fisicamente. Vi capita mai, non solo a me forse più di voi, d'accordo, lo accetto, ma non vi capita mai di incontrare una persona, incrociarla con lo sguardo, vederla e non guardarla, non riconoscerla? Quante volte? E perché? Semplicemente perché sono preso dalle mie cose. E guardo oltre, anche che incontro la persona, guardo oltre, vedo, non la vedo la persona, proprio quando ti deve chiamare la persona. La stessa cosa accade, fratelli e sorelle, spiritualmente, nelle situazioni che noi viviamo. Gesù cammina con te, sempre, sempre, Gesù cammina con me, sempre, sempre. Eppure non lo vedo e non lo riconosco, proprio a causa di queste cose. È proprio come quando, come dire, è proprio come quando è talmente forte il desiderio di un qualcosa che ne senti l'odore e il sapore. Ed è diventa reale, diventa pratica. E così i nostri desideri, le nostre aspettative diventano azioni per la nostra vita e non riconosciamo Gesù. Quando non riconosciamo Gesù, un altro aspetto, quando non riconosciamo Gesù, sempre prendendolo dai due di Emmaus, il dubbio. Infatti, nello stesso verso, il verso 21, loro dicono: noi speravamo che, e poi subito dopo aggiungono: invece, sono passate 3 giorni. Dici, sì, sono stato il primo, il se, ho voluto pure, mi sono sforzato a creare, forse da qui viene il detto che noi abbiamo, gli ospiti sono come il pesce, dopo 3 giorni puzzano. Forse viene da qui, chi lo sa? Dice, abbiamo aspettato fino al 3° giorno. Non è successo. Abbiamo pure, ci siamo sforzati a credere, abbiamo voluto credere, però ormai non c'è più niente da fare. Non c'è più niente. Questa era la situazione. Il dubbio toglie la visione di Dio dentro di te. Il dubbio ti ruba il futuro che Dio ha per te. Il dubbio toglie quello che il Signore ci vuole fare vivere in ogni situazione. E diventa una realtà quel modo. Il dubbio diventa, non è solo una sensazione il dubbio, non è solo un pensiero, non è un sentimento forte che noi avvertiamo. No, diventa pratica della nostra vita. Noi poi agiamo, ci muoviamo e parliamo in funzione di quel dubbio. È diventato il nostro modello di vita, è diventato il nostro modo di agire e di essere e di fare. Il dubbio, e guardando sempre ai due di Emmaus, quelli che camminavano e che tornavano indietro, che tornavano cioè andando a casa loro, hanno mollato. Hanno detto: non c'è più niente da fare, torniamocene a casa nostra dove c'è una forma di sicurezza, sì la visione di Dio, sì la chiamata di Dio, sì quello che il Signore vuole da me, di come mi devo vivere e comportare in questa società, sì è vero, però il dubbio rende reale un vivere non secondo il Signore, ma secondo quello che ci viene suggerito. I due mollarono e tornarono a casa pensando che era il meglio o almeno il sicuro per loro. Eppure loro stessi hanno detto a Gesù, sì, speravamo, invece, certe donne. Quando noi parliamo delle donne, le chiamiamo certe donne, non donne, per dire, sai, all'epoca adesso è cambiato, no? Loro, che ti vuoi aspettare da una donna? Questa era, hanno detto che sono andata al sepolcro, non hanno trovato niente, anzi hanno detto pure che hanno avuto una visione di angeli, certe donne. E poi aggiungono ancora, cammina le certe donne, dice, però pure alcuni colleghi nostri sono andati là e hanno verificato e la cosa stava realmente così. Ma l'invece era più forte di questo. L'invece era più forte di questo. Al 3° giorno quelle donne sono andate lì. E loro hanno fatto vincere invece nella loro vita. L'invece è diventato un modo di vivere. Non vedere. Loro hanno, e questo volevo dire a noi, ma loro, ecco, non vediamo come loro hanno visto. Non vedere solo quello che hai perso. Loro hanno guardato a quello che avevano perso. Avevano perso il loro Gesù, che camminava, che consigliava, che parlava loro, che faceva miracoli, che non gli faceva mancare nulla. Avevano perso quel Gesù che provvedeva a tutti, che loro, a tutto, che loro non si dovevano preoccupare di dare risposte agli altri, perché Gesù ce le aveva sempre pronte. Era quello che il dispensatore di caramelle. Basta mettere una monetina e tac, ti esce la caramella. Avevano perso il distributore in un qualche modo, diciamo così. Non permettere che il dubbio ti rubi il futuro. Non vedere solo quello che hai perso. Loro guardavano a quello che avevano perso e non riuscivano a vedere al loro fianco il Re dei Re, il Signore dei Signori, che stava camminando con loro. Guardavano a un Gesù perso, a un Gesù che non risponde, a un Gesù che non si fa vedere, a un Gesù che non agisce secondo i miei desideri e le mie aspettative, e non vedevano il Re dei Re che camminava al loro fianco. Sognavano, perché poi lo dicono anche loro, noi speravamo che fosse lui il Davide con la fionda che doveva abbattere il gigante e che Israele sarebbe stato liberata. Aspettavano il condottiero con la spada, e invece Gesù era una persona normalissima. Gesù cammina molto normale al tuo fianco. Gesù cammina in una maniera molto, molto, molto semplice. Sì, poi loro dicono anche, è vero, era potente, è scritto questo, era potente in parole ed opere. E poi fra le righe poi legge, però non ha esaudito le nostre aspettative. Era potente in parole ed opere, ma non ha esaudito le nostre aspettative. Non era il Davide, non era il condottiero, non era il vero liberatore, e si stavano perdendo il Re dei Re, il Signore e il Salvatore. Lasciamo stare, per piacere, saette e fulmini che ci piacciono tanto, no? Signore, fai piovere, fai distruggere. Lasciamo stare queste cose, perché non hanno a che vedere con il Signore. Il Signore agisce parlando con noi, semmai anche discutendo, anche litigando. Gesù agisce così con noi. Vi ricordate, non viene in tuoni, non viene in fuoco, non viene in un dolce suono, è scritto. Chi era? Elia? E a quello noi dobbiamo porre attenzione. Lui è al mio fianco, lui è al tuo fianco, e io devo fare in modo che gli altri vedano che Gesù è al mio fianco. Come lo devono vedere? Io non lo so. Forse con il mio modo di parlare, forse con il mio modo di agire, forse con il mio modo di essere. Quello fa vedere che Gesù è al mio fianco. Gli altri lo devono vedere. Se gli altri ti dicono, siete come noi. Senta me. Non lo voglio dire, ma vuol dire che siamo messi, come dice uno, male, male, male. Vuol dire che Gesù non traspare da noi. Vuol dire che Gesù non è decentrato. non il centro, come cantiamo. Un altro aspetto, continuiamo, un altro aspetto di quando non lo riconoscono i due, ma anche noi, vedi quando ci possiamo identificare in una storia bella così, quando non lo riconoscono? Non lo riconoscono quando Gesù insegna e parla loro. Infatti da quel momento in poi Gesù prese dagli ultimi eventi, è scritto che è prese da Mosè dietro, come spesso faccio io, no? Da dietro, e incominciò a spiegare tutto, e niente, ascoltavano, era bello quello che Gesù diceva, che bel racconto, proprio interessante, lui insegnava, lui mostrava, è vero che poi hanno detto, sì, dopo però, come noi, dopo, dice, ma qualche cosa dentro la sentivamo ardere, è vero? Dice, dopo, ma dopo, quando senti, quando sentiamo ardere qualche cosa, che è una lettura, che è una predicazione, che è una parola profetica, che è un abbraccio o uno sguardo, non farlo passare. Quello è Gesù che cammina al tuo fianco. Quello è Gesù che cammina al mio fianco. Quello è il Signore che mi sta dicendo, insegnando, addestrando e mostrando quella che è la sua volontà nella mia vita. Perciò non lasciarlo passare. Parlava loro. La parola. Comunque sia un messaggio, qualcosa che ti tocca, è logico che voi non siete sempre presenti mentre io sto parlando. Molte volte li vedo gli occhi di triglia che si fanno a metà. Allora, non è, io lo capisco che è chiaro così, non è che si può seguire tutta la mezz'ora, i tre quarti d'ora, quant'è di quello che facciamo, è chiaro, però è probabile che un aspetto ti tocca, quell'aspetto vuol dire che Gesù sta camminando al tuo fianco, che sta agendo e reagendo con te. E non quello che diceva Gesù ai due è: non ascoltate solo, fai. Vi ricordate? Fai, ascolta e fai. Io vorrei tanto illustrarvi l'importanza della parola di Dio, non solo come una lettura o di una parola profetica che noi riceviamo o di un messaggio, quanto è importante questo nella nostra vita, che lo dobbiamo prendere dal ascoltare e fare. E l'avrò raccontato già altre volte, ma io ricordo tanto tempo fa, quando uscirono, mi servo di questo esempio perché a me aiuta sempre, quando uscirono le prime calcolatrici a batteria, io siccome con i conti non dovevo portare i conti, ne comprai subito una, con tutta la gioia. Sai quando compri proprio una cosa, la gioia che non stai nella pelle, che non vedi e non senti nessuno. Tua moglie ti può pure parlare e tu dici sì, ma non hai sentito niente. E io stavo, e allora ho preso questa calcolatrice e allora era anche più facile, non era scritto on, off, era scritto acceso, spento. Proprio alla quinta. Allora io ho fatto acceso, niente. Ho pensato, sai, che piace mettere le mani, le batterie. Ho aperto, c'erano le batterie, ma le cambio, così forse si sono consumate, ho cambiato le batterie. Sono andate di nuovo, niente. Ho detto, l'unica cosa, mo uso il metodo di mia moglie. con tutto, ma nemmeno ha funzionato. E poi a quel punto ho guardato lo scatolo, guardate la calcolatrice, ho guardato lo scatolo e ho visto che c'era un libricino dentro. L'ho preso, era il libretto delle istruzioni. L'ho aperto e dopo i primi consigli diceva subito: prendere una penna, prendere la calcolatrice, girarla alla parte di dietro, in alto a destra c'è un forellino con dentro un bottoncino rosso, infila la punta della penna in quel, ve li ricordate quelle cose? Infila il punto della penna, infilate il punto, miracolo, si è messa a funzionare il libro delle istruzioni. La parola di Dio che cos'è? Non hai un altro senso. È il libro delle istruzioni, della volontà di Dio per noi e del Signore per noi, perché Lui, come un manuale, ci era così semplice. Io ho fatto di tutto e di più, ho pensato alle cose più complesse, più complicate, più brutte, e invece era la cosa più semplice infilare una penna in quel forellino e tutto si era acceso. E così è la parola di Dio. È come un manuale, ci guida, ma in maniera molto semplice nelle situazioni che noi viviamo, come affrontarle e come viverle. Ora, per andare un poco verso la conclusione, ho detto andare verso la conclusione, non vi illudete ancora. Quando hanno riconosciuto Gesù? Ditemelo. Che vuol dire? La croce. La croce. Che cosa è accaduto? Cioè, i due non hanno riconosciuto Gesù nel loro aspetto fisico. Si sono ricordati di un particolare, della tunica, dei capelli, della barba. Non lo so se ce l'aveva la barba. Non hanno riconosciuto questo. Con un semplice gesto di Gesù, spezzare il pane, che poi il pane d'allora era come una pizza nostra, bella, rigida, rigida, si spezza facilmente, quindi nemmeno tutto lo sforzo di il pane nostro, no? Quello tac e si spezzava. Quel semplice gesto è scritto, a quel semplice gesto si aprirono gli occhi loro. Perché? Semplicemente perché in quel momento si sono arresi alla croce. Hanno capito, hanno afferrato il motivo per cui Gesù era venuto sulla terra per loro. Per quale motivo era venuto Gesù? Quel pane, quel gesto lo spiegava tutto e loro hanno capito grazie al fatto che si sono arresi. Sai quando noi vediamo Gesù camminare al nostro fianco, al mio fianco, nelle situazioni che stai vivendo anche oggi? Quando ti affidi, quando ti arrendi a Lui, quando non anteponi, come abbiamo visto prima, il mio modo di pensare, la mia visione, quando non metti davanti e non fai continuare, gli spezzi subito le gambe al dubbio, quando tu prendi sul serio una parola che ti viene data, quella parola è vera, io la voglio e la devo praticare. Anche se il fratello che te l'ha affidato, che l'ha predicato o che te l'ha detto non ti è tanto simpatico, quella parola va presa e praticata. Vi ricordate la pagaia? Lì ho capito il significato della pagaia. Ascolta e fai. ascolta e fai. Noi viviamo paure, viviamo dubbi, viviamo delusioni, viviamo incertezze, viviamo incredulità. Incredulità. Io vivo veramente tante volte l'incredulità, quel sì ma è incredulità. Vai alla croce, vai alla croce. Andare alla croce, o meglio, la croce è arrendersi. La croce è avere fiducia nel Signore. La croce è affidare la cosa al Signore. È molto, ma molto semplice andare alla croce per vedere Gesù che cammina con me. Come si cammina? Come si cammina? Come si cammina? Con le gambe. Però per cammini con le gambe, un passo dopo l'altro mi permette di camminare, cioè di muovermi e andare verso quella direzione, quell'obiettivo. L'obiettivo è questo, è Gesù cammina con me. Come mi muovo molte volte io? È la stessa cosa della barca e della pagaia. Tu ti puoi muovere facendo un passo sempre con la stessa gamba. Mi sto muovendo, Mi sto muovendo. Dove sto andando? Verso il giramento di testa, e fra poco cadrò, almeno per me. E cadi, e molte volte cado. E molte volte cado, un passo dopo l'altro. Io mi servo di nuovo di Luciano, vengo vicino a te, va bene? Voglio farvi leggere una storia, cioè un qualcosa vissuto da una persona. È un anonimo che l'ha scritto, non si sa, si pensa che l'origine la conosciamo tutti quanti noi, molti di noi, venga dal Brasile. Però ascoltate questa esperienza. Sì. Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita passata. E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme, le mie e quelle del Signore. Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma, ma proprio nei giorni più difficili della mia vita. Allora ho detto: Signore, io ho scelto di vivere con te e tu mi hai promesso che saresti stato sempre con me. Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti più difficili? E lui mi ha risposto: Figlio, tu lo sai che io ti amo e non ti ho abbandonato mai. I giorni nei quali c'è soltanto un'orma sulla sabbia sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio. Quando vivi situazioni non belle, sono proprio quelli i momenti in cui Gesù ti prende in braccio, non cammina con te, ti prende in braccio. È tipo, sì, lo so che sarebbe bello sempre così, sempre in braccio, ma anche con i bambini facciamo la stessa cosa. Quando sono stanco lo prendiamo in braccio, però dopo un poco dici: beh, mo cammina un poco. Gesù fa lo stesso, perché insieme è camminare con Gesù e guardare la sua meta, non il mio desiderio. Camminare con Gesù è andare avanti nella direzione che lui dice. I due, una volta che riconobbero Gesù, che cosa fecero? Vi ricordate la storia? Andatela a rileggere, ora siamo diventati stanchi da ascoltare, però lo faccio io. Si alzarono in piedi e tornarono a Gerusalemme. E loro che avevano fermato Gesù, dicendo: no, rimani con noi perché si fa notte, è difficile. Loro in quel momento non hanno pensato né ai pericoli, né, sono tornati indietro. Qualche volta Gesù ti chiede di tornare indietro, di riafferrare quella che è la sua volontà nella tua vita. E per concludere proprio, per piacere, andate a leggere la storia dopo, nel verso 36, tornarono lì, trovarono gli 11 discepoli e gli raccontarono il fatto, come era. E mentre stavano proprio raccontando, appare Gesù. E che cosa succede? Gli 11 che cosa fanno? Che cosa dicono? Non plus oltre, Gesù è apparso a noi. No, come me e come te, lo scambiarono per un fantasma. Incredibile, lo scambiarono per un fantasma. Gesù al tuo fianco non è un fantasma, è una realtà che ti porta e ti conduce verso quella che è la sua meta. Non che le tue non sono buone, sono buonissime, anzi sono meglio che buone. Le tue mete, i tuoi obiettivi, le tue aspettative sono buonissime, però quelle di Gesù sono meglio. Amen? Vogliamo alzarci in piedi, ringraziare il Signore. Veramente grazie Gesù che cammini con noi in ogni situazione. Io voglio presentare a te, oh Gesù, in questo momento ognuno che sta vivendo situazioni forse non proprio belle. Per piacere, mostra che tu sei il re, il vincitore, e non quello che non esaudisce le aspettative. Signore, parla al cuore di ognuno di noi in questo giorno. Amen.